Ciao a tutti, siamo tornati con IPFN, siamo in diretta, come sempre con me c'è Matteo Rubinato. Ciao Matte. Ciao Sal. Mi sono dimenticato di dire il mio nome effettivamente, è che abbiamo talmente tante di quelle cose da dire stasera che non c'era tempo per dire il mio nome. Esatto. Allora, guardate, c'è intanto una notizia dell'ultima ora che diciamo adesso per poi passare alla scaletta classica, ossia di Latematte. Esatto. Beh, per la felicità di Rolando, vero, eh? Allora, Rob De Moschi ha twittato tipo 30-40 minuti fa che praticamente è una anteprima sulla schedule release che verrà questa notte per noi, un evento che io vivo con molta trepidazione, non so per quale motivo, perché tanto sappiamo già contro chi giochiamo, però vabbè, forse il sentire che il football giocato sta tornando. Comunque, tornando alla notizia, sembrerebbe che i Packers ospiteranno i Bears nella terza partita del Thanksgiving. Quindi, visto che le altre due sicuramente sono le partite casalinghe di Dallas e Detroit, che di solito giocano scusami, Detroit la prima e Dallas la seconda, sicuramente, se tutto sarà vero, la partita dei Packers sarà quella della notte, quindi per le 2 o le Esatto. 2:30 ore italiane, e molto probabilmente sarà la partita nella quale verrà ritirata la maglia di Brett. Evento che aspettiamo da tanto, la grande Sì, dai, riconciliazione adesso. finalmente. Esatto. Dai, si è scritto tanto, troppo, ritiro della maglia sì, no, stronzo sì, stronzo no. Alla fine, secondo me, è giusto farlo. È giusto farlo perché comunque è uno dei giocatori che ha riportato Green Bay nella mappa del football, che poi si sia comportato non bene o in maniera egoistica, sì, però vabbè. Non dico che glielo perdoniamo al 100%, rimane un po' di amaro in bocca, se più che altro lascia. Però Brett è il motivo per cui io tifo Packers, è il motivo per cui mi sono appassionato al football e quindi comunque no, in fondo non mi sento di odiarlo, anche se ovviamente poteva essere tutt'altra storia. Poi diciamo che è sempre così, quando le grandi storie d'amore finiscono c'è un po' di attrito, c'è un po' di rivendicazione da una parte e dall'altra, ma è bello che finalmente si riappacifichi. Poi sappiamo anche a luglio ci sarà l'introduzione ufficiale di Brett nella Hall of Fame dei Packers e si chiude fondamentalmente un cerchio, una ferita che era aperta da diversi anni ormai, è giusto così. Sì, dal 2008, diciamo, dai. Esatto. Noi, dopo aver dato questa breaking news, diciamo così, torniamo alla scaletta che avevamo pensato. Io volevo iniziare in realtà con un ricordo. Nel senso, giovedì scorso è morto all'età di 90 anni Lee Remmel, che potremmo definire come la storia dei Green Bay Packers, perché Esatto, pensate un sì. po', ha seguito i Packers per ben 62 anni, dal 1945 al 2007, quando poi è andato in pensione. E l'ha fatto in tre ruoli diversi, prima come corrispondente della Press Gazette, dopodiché come all'interno dell'organizzazione dei Packers direttamente, come PR man, l'uomo delle pubbliche relazioni, e come storico dei Packers. E, Pete Doherty su Press Gazette ha scritto un articolo bellissimo che è stato ritweetato praticamente da tutti i giornalisti che seguono i Packers, è stato citato in innumerevoli articoli. E in cui viene fatto il ritratto di quest'uomo che, la cosa incredibile che mi ha colpito, ha conosciuto e ha lavorato con tutti i 14 capi allenatori della storia dei Packers, da Carlie Lambeau, il primo in assoluto, fino a Mike McCarthy, che è arrivato poco prima del suo ritiro, del suo pensionamento. Una vita con i Packers, una vita bellissima, immagino, per cui un Certo, ricordo. assolutamente. Guarda, io non posso dire di conoscerlo, però mi ricordo che nei primi tempi che seguivo i Packers, mi ricordo che leggevo sempre il dope sheet, che era una specie di PDF, beh, un PDF, sì, alla fine, che usciva prima come presentazione delle partite sul sito di Packers.com, dove praticamente si viveva la partita della domenica con tutte le statistiche, la storia delle partite, ed era, penso, una cosa che facesse lui. Tutti i giornalisti che gravitano all'interno dell'orbita Packers, quindi penso da Pete Doherty, esatto, McGinn o lo stesso Jason Wilde, hanno avuto belle parole nei confronti di lui e anche Brett Favre, ricordiamolo, con il quale sembra ci fosse un bellissimo rapporto. e basta, sì, giusto ricordarlo, visto che alla fine parliamo di Green Bay anche noi. Esatto. E quindi, insomma, rip l'IRML. E niente, dai, voltiamo pagina, insomma, Voltiamo senza pagina. commuoversi. Esattamente, esattamente. Torniamo all'attualità, dai. Ieri sono finalmente iniziati i workout. Possiamo dire che anche per i giocatori ieri è iniziato il 2015, È perché iniziata la tornano ad stagione, allenarsi. finalmente. È Esatto, iniziata la magari stagione. per allenatori e scout era già iniziato con la combine, le prime visite, i pro day, eccetera, a cui hanno partecipato. I giocatori invece ricominciano adesso, ritornano Esatto, nell'università. ufficialmente. Ufficialmente ieri. E quindi ieri abbiamo sentito un sacco di dichiarazioni, un sacco di interviste, devo dire, molti giornalisti hanno messo il dito nella piaga continuando a chiedere incessantemente a proposito del Championship Game. Noi non lo faremo, Abbiamo non già parleremo parlato del ancora del Championship. Championship. Mi Esatto, sa che basta. Proprio parliamo del prossimo Championship, dai, adesso più basta. E, vabbè, ridiamoci su, però cosa vuoi fare? sì, una cosa che mi piaceva segnalare era, visto che noi abbiamo visto le immagini sul sito dei Packers, sui social network, abbiamo visto i grandi giocatori che sono già a Green Bay. Non è così per tutte le squadre, nel senso Esatto. che questi non sono dei workout obbligatori per i giocatori, stando al contratto collettivo, ma sono volontari. I Packers però hanno una cosa chiamata workout bonus, che incide molto nei contratti, in particolare quelli dei giocatori più importanti, perché Ted tiene molto a che tutti i giocatori a roster partecipino fin da subito all'attività organizzata dalla squadra. In particolare leggevo che i Packers hanno workout bonus per 5 milioni di dollari quest'anno per 22 giocatori, e su 16 giocatori in tutta l'NFL che hanno dei workout bonus di 500.000 o più dollari, 5 sono dei Packers. Cioè Rodgers, Shields, Peppers, Matthews e Nelson. Praticamente E questo fa capire. vengono pagati per allenarsi, mi pare giusto, no? Esatto. È molto importante per Ted, per in generale tutto il coaching staff, perché appunto da questi workout, che sono soltanto di ricondizionamento e sala pesi, si ricomincia a riformare la condizione atletica in vista della stagione. Quindi piuttosto che fargliela fare da soli, la fanno insieme. Giusto, io sono d'accordissimo su questo modo di strutturare i contratti, anche perché insomma, questo è il momento in cui alla fin fine cementi il gruppo, secondo me, è il momento in cui le partite sono distanti, non c'è la pressione di doversi preparare, quindi magari è un toccasana anche per lo stesso gruppo, quindi e poi è giusto, vuol dire, alla fin fine sì, la stagione è così corta. Non troverei giusto che si trovassero solamente per gli OTA o per quanto riguarda il training camp. Ricordiamo Favre negli ultimi anni, Esatto, te lo stavo per ah, citare. ecco, cominciava, si presentava praticamente il 30 luglio, il 1 agosto a Green Bay, quindi. Ah, mi perdoni, visto che abbiamo citato il Thanksgiving night, TJ Lang ha appena twittato: Thanksgiving home game, I'm all in. Quindi abbastanza eccitato. Quindi, ok, niente. Mi piace il modo in cui carica e si carica su Twitter, perché è molto attivo lui sui social network. Purtroppo non così attivo da rituitarci quando gli mandiamo Esatto, i link, però ci stiamo lavorando, dai. passiamo alle minacce. Esatto, vabbè, prima o poi che lo capiscono con le buone o con le cattive. Comunque, nel frattempo, per quanto riguarda sempre il roster, un'altra cosa che era interessante dire era che attualmente ci sono 64 giocatori sotto contratto, ricordiamo che è stato rifirmato anche Banjo, o Banjo, chiamalo come vuoi. Lui ha firmato un contratto per un anno al minimo per i giocatori del secondo anno, che sono 585.000 dollari, mi accontenterei di molto meno. E ha firmato la sua tender. Banjo è uno di quei giocatori che ha avuto un po' un roller coaster nei Packers, nel senso, da rookie nel 2013 ha giocato 16 partite, è stato il secondo negli special team in quanto a tackles. Poi nel 2014 è stato tagliato, messo nella practice squad fino a week 15, per poi tornare a giocare nelle rimanenti partite, compresi i playoff. Quest'anno probabilmente la sua firma significa ciao ciao Jared Bush. È ancora presto, secondo me, ancora presto. Tutto dipenderà dal draft, dagli undrafted, ma non esclude ancora un ritorno di Jared Bush ai minimi salariali, perché alla fin fine cioè, parliamo di quello, quindi non penso di dargli del tutto le gambe a Jared Bush. Ricordiamo che dei nostri free agents ancora liberi, cioè che non siano stati rifirmati da noi o firmati da altre squadre, ne sono rimasti due, che sono appunto Bush e Matt Flynn, a cui ho chiesto l'amicizia su Facebook, ancora non mi ha risposto. comunque, parlando sempre del roster, di questi 64 giocatori, ben 11 sono al minimo salariale di $435,000, e questo fa sì che siamo 16,5 milioni sotto il cap, pur avendo rifirmato praticamente tutti i nostri free agent più importanti, e quindi per arrivare al limite in off-season di 90 ci restano 26 giocatori, e, arriveranno sicuramente quasi tutti dal draft e post-draft, quindi tra gli undrafted, e ricordiamo al draft abbiamo 9 scelte, le 7 in ogni giro più le 2 compensatory, e dopodiché, esatto, dopodiché i vari undrafted che di sicuro arriveranno e per i quali stanno facendo le visite questi giorni. Esatto, e non dimentica tutte le trade che farà Ted Thompson per portare a casa. No, trade up, trade down. Trade di no, una cosa sul roster, dopo ti lascio andare. È interessante, ho sentito nei giorni scorsi, forse ieri o l'altro ieri, come appunto ne abbiamo rifornato tutti i free agent, praticamente a parte Flynn e Jared Bush, e tra questi Kuhn, che ritorna mi pare anche lui al minimo salariale, ricordiamoci che Kuhn è rifirmato al minimo salariale, l'anno scorso ha fatto il Pro Bowl, quindi fa un po' Esatto. ridere, insomma, come notizia. Il giocatore che ha fatto il Pro Bowl nella sua posizione che poi raramente occupa, infatti raramente gioca da fullback puro, e si Raramente trova con gioca le perché ha gambe. giocato solo il 20% degli snap Vero anche offensive. quello, vero anche quello, con l'esposizione che stava scomparendo nell'attuale NFL, però si trovava a spasso e senza contratto ed è stato ricordato praticamente dal minimo salariale. Fa un po' ridere, insomma, se si pensa a quello che è il Pro Bowl, insomma, alla fine. Tra l'altro, sempre parlando di fullback, parlando di roster, abbiamo notizia di altre visite pre-draft. Adesso non sto a citare tutti i giocatori sconosciuti, però mi piaceva segnalare alcune visite tra quelle dei giocatori maggiormente quotati. In particolare è stata riportata una visita di Aaron Ripkowski, che è un fullback di Oklahoma, 6'1", 238 libbre, proiettato al settimo giro, è visto come il fullback migliore di questo draft. Secondo me, ho guardato un attimo il suo profilo, secondo me è il profilo giusto per giocare nei Packers, nel senso, a parte la durability, ha giocato in tutte le 26 le partite di Oklahoma negli ultimi 2 anni, ha vinto quello che a Oklahoma si chiama Don Key Award, che è un premio che viene assegnato ai Sooners che dimostrano impegno in campo e fuori dal campo, quindi diciamo un giocatore che tendenzialmente come cultura e mentalità può piacere a Ted Thompson e Green Bay, e potrebbe essere l'erede di Kuhn, che ne so, visto che comunque il Lo dici contratto che Kuhn te, ha io firmato, non ho la minima sì, idea lo di chi dico sia, io. non ho la minima idea di chi sia questo Ripkowski. Considerando che Kuhn è stato firmato per un anno, ha 33 anni, compirà quest'anno, e potrebbe essere possibile nuovo Kuhn. Certo. Il nome è strano, probabilmente non si presta a urli dagli spalti, però magari lo si chiama Aaron e basta e siamo a posto. Un'altra visita interessante è stata quella di Jesse James, tight end di Penn State, Jesse James, il nome fa paura. esatto, Attenzione. che invece è proiettato al terzo quarto giro, quindi già si sale, non è un possibile undrafted. E è uno dei tight end più quotati del prossimo draft, un gigante, 6'7", 261 libbre, è un junior, quindi avrebbe avuto ancora un anno di eleggibilità al college, e ha corso al suo pro day 4'69", che per la sua stazza penso che sia abbastanza interessante. L'ultima visita che cito, poi mi quieto perché poi io mi perdo a parlare di queste cose, è Tony Stewart, che è un inside linebacker di Clemson, 6'1 per 241 libbre, è visto come un giocatore ideale per la 3-4 dei Packers, nel senso che sarebbe un weak side linebacker al college e sarebbe perfetto per la 3-4 di Green Bay. Previsione undrafted per lui, però dato che siamo alla ricerca di inside linebacker ho voluto citare anche lui. Andando Veramente? avanti, Ma ricerca neanche tanto disperata, dai, come abbiamo visto dai movimenti. Disperata per alcuni, ma non per Ted. Esatto. Infatti, noi avevamo chiesto a quei milioni di ascoltatori e persone che ci seguono sui social network quale fosse il giudizio che davano alla off-season dei Packers. Noi ovviamente daremo anche il nostro. Sono arrivate un sacco di risposte, alcune positive, poche, alcune negative. E io volevo iniziare in realtà da un parere illustre, perché l'abbiamo anche annunciato. Abbiamo scritto a Jersey Hall, il grande Al Bracco di All Green Bay Packers, di Packers Talk Radio Network, ha Esatto. risposto alla nostra domanda tramite mail e quello che ha detto è che darebbe, adesso io ho tradotto quindi la leggo direttamente, darei all'off-season dei Packers una B, quindi voto all'americano, la B cosa può essere? Un 8? Un 8, sì, dal Esatto. 7 all'8 almeno, diciamo, sì, Ok. sicuramente. E hanno rifirmato due uomini più importanti, Cobb e Bulaga. Speravo rifirmassero uno tra House e Williams, ma a quelle cifre li avrei fatti partire anch'io. Mi sorprende che non abbiano firmato un inside linebacker in free agency. C'erano diverse opzioni poco dispendiose che avrebbero potuto dare un po' di profondità al reparto e una mano agli special teams. Quindi, diciamo che una delle costanti di Tom, intanto grazie Al, di sicuro ci starei ascoltando. Una delle costanti è appunto questo immobilismo per quanto riguarda la free agency, attendismo, immobilismo, chiamiamolo come vogliamo, però questo non ha pregiudicato il voto di Jersey Hall, nel senso che ha dato comunque una B. I commenti su Facebook invece sono stati un po' diversi. Tu hai pensato al tuo voto intanto? Mamma mia, certo, guarda. Ok. Intanto io partivo dal migliore di tutti, nel senso quello più carico, cioè quello di Arianna, che sulla nostra pagina Facebook ha detto che si merita un bel 9 di incoraggiamento perché è tornato il bulagone suo, tra virgolette. Anche se poi dice un voto in generale non saprei darlo, io aggiungo probabilmente più esperta di tazze. Però questa è una cosa, insomma, si capirà, Non la si lo prende in giro. E sempre sulla nostra pagina Facebook, Ilio Tomeo invece ha dato un 8, dicendo che avrebbe rinnovato Williams dato che il cap c'era. E poi arrivano i commenti un po' più negativi. Intanto vuoi dire il tuo di voto, Matteo? sicuramente dal 7 all'8, sicuramente. Dai, dillo anche tu all'americana. B, B B, plus, B no, minus. no, B, B, B, B, B. Anche Vai, vai, per vai, me. dopo voglio sentire il tuo, voglio sentire. Ok, diciamo dopo. E, mentre invece sul gruppo Green Bay Packers Fans Italia, non mi ricordo più, Italy deve essere, penso, sì. Gianni Cidioli dà un 6 sulla fiducia, Rolando dà un C-, Ok. che spiega così, un B per aver firmato i nostri free agents e una F. Addirittura. Ricordiamo che i voti vanno dalla A alla F in America, per cui altrimenti probabilmente avrebbe dato un voto più basso, una F per le altre opportunità di mercato non sfruttate, quindi per non aver considerato i free agents altrui. E Maurizio Castiglione e Cino Guglielmino invece si attestano più o meno su una striminzita sufficienza. Paolo Cuscusa, carico come una molla, 8 come minimo, perché abbiamo rifirmato i giocatori da rifirmare, niente eccessi e sorprese, e abbiamo lasciato spazio sul cap. A proposito di questo, spazio sul cap, ricordami dopo, Mike Daniels. Vediamo un po'. Alex Gridiron dà un A- per i nostri rinnovi e una B per la free agency con un discorso particolare, ossia non abbiamo preso nessun altro, però lui considera la free agency poter schierare i giocatori non schierati l'anno scorso, che è come se fossero Sì, free agents. è un po' particolare come pensiero, secondo me. Ma ci sta, eh. Per l'amore di Dio, ci sta. È un suo modo di vedere le cose, Sì, che ci può anche stare in realtà, sono ci può giocatori anche che comunque stare. hanno un anno di esperienza in saccoccia, intanto anche se practice squad Citiamoli, piuttosto sono che allenamento. praticamente i Jeff Janis, i Carl Bradford, beh, anche i BJ Raj, alla fine, che non abbiamo Esatto. avuto l'anno scorso, i Mitch Goodson, questi giocatori qua, praticamente. Sì. Ci può stare, nel senso sono giocatori da cui è comunque atteso un maggiore rendimento quest'anno, poi che Esatto, effettivamente lo possano combinare diano. qualcosa è da Speriamo. vedere. Esatto. Poi abbiamo Stefano Saccardi che dà un 6 meno perché dice di firmare i nostri è stato il minimo sindacale. Io non credo che sia così, nel senso non è stato facile, secondo me, rifirmare Cobb e Bulaga quelle cifre. O meglio, è stato facile perché loro volevano restare, ma non era così scontato. E, mentre invece il meno lo dà per la perdita di Williams e la voragine a cornerback e inside linebacker. Giancarlo Corazza dà un 6. E Omar, io adesso non so se si legge Montuori o c'è una qualche pronuncia particolare, comunque Omar dà un 7 per aver dato continuità nei ruoli chiave. E noi abbiamo chiesto parere anche a Brian Caribou su Twitter, che ha risposto: non sono tipo da dare i voti, quindi ci ha stroncato così. Esatto, cioè, mi ha spezzato il cuore. Infatti gli ho risposto: ah, ok, comunque in bocca al lupo per la nuova avventura, perché ha cambiato sito, insomma adesso scrive per un altro sito. E, in ogni caso, il mio voto io darei un B+, sempre per dirlo all'americana, nel senso che penso che sia stato un po' sottovalutata la portata della rifirma di Cobb e Bulaga, come dicevo prima, a quelle cifre. E, i giocatori volevano restare, sono voluti restare in un ambiente vincente, che se ne dica, una cultura vincente, e, però non era scontato, erano due dei premium free agents, come si dice in America, Cioè, beh, sicuramente Bulaga lo e era, Cobb probabilmente se la esatto. giocava, però anche lui, sicuramente come slot era il migliore che c'era nella piazza. Esatto. Non mi ricordo che ci fosse come tra gli altri wide receiver, ma sicuramente se non era il primo, era il numero 2, numero 3, ecco, dei Sì, free agent. noi ce li siamo tenuti. Tra l'altro, con la rifirma di Bulaga abbiamo la linea offensiva che rimarrà la stessa, toccando ferro e tutto il resto, per Sì, i prossimi 2 anni. non solo quello. Tutto quanto l'attacco è firmato per quest'anno e Esatto. anche per il prossimo, quindi non è una cosa insomma, proprio da tacere o da non valutare. Avere per 2 anni la sicurezza di avere quei giocatori praticamente il più forte attacco della Lega, probabilmente sulla carta, anche a numeri. E oltre a questo, dopo ti lascio finire, Sala, scusami, Sì. hai Tretter, hai Barkley che hai rifirmato, quindi hai anche i due praticamente backup della linea offensiva, hai il ritorno di Abrederis e speriamo l'esplosione di Jeff Janis, in teoria nel ruolo rimane forse qualcosa come backup running back o tight end da completare nell'attacco. Ma sappiamo benissimo che cosa è diventato, per esempio, il ruolo di running back nell'NFL, la profondità del draft in quanto running back, quindi possiamo benissimo trovare un running back capace di fare backup nei giri Sì, esatto. intermedi barra bassi del draft, per esempio. E, mentre invece, per esempio, su tight end si potrebbe anche spendere una prima barra seconda scelta, a seconda di quello che c'è quando dovremo scegliere noi. Non do il massimo dei voti, uno perché ancora devono fare tutto, nel senso la free agency. Manca il draft poi, quindi. Esatto, ma anche perché sinceramente mi sarei aspettato che si facesse di più per tenere House, non tanto Williams, perché ormai purtroppo penso che fosse un po' in declino, l'abbiamo detto anche nelle scorse puntate, se non sbaglio. House aveva, secondo me, un buon potenziale, 25 anni. È stato l'unico che è riuscito a tenere Julio Jones la partita in casa contro Atlanta. E diciamo che a quelle cifre è stato poi il mercato a decidere Ma la sua partenza. l'avresti rifirmato anche a quelle cifre lì? E sì, puntando sul fatto che magari gli infortuni li ha già fatti. Ah, Il sì, no, ok. suo tallone d'Achille è sempre stato appunto questa fragilità che fa sì che si rompa abbastanza spesso. Ma sì, probabilmente avrei provato, nel senso che comunque è un giocatore che già da anni nel sistema, è un giocatore bravo fondamentalmente. E di certo non mi fascio la testa per il fatto che se ne sia andato sia di Williams, per cui francamente ci sta, B+, B+, 8 Perfetto. Qualcun e altro tra poi ha l'altro, commentato, o li hai già letti tutti quanti i commenti? penso di averli letti più o meno tutti. No, Sì, credo Francesco sì. forse. No, Francesco Picotti forse hai dimenticato, E che aveva dato anche perché lui un poi negativo. non avevo visto il voto probabilmente, Ah, ok, basta. perché poi c'è stata la Sì, polemica polemica sì. c'è un. Esatto, E dai. comunque, visto che volevamo fare anche un recap di quello che è stata la season finora, leggo, è rimasto Cobb, Bulaga, Tolzin, Kuhn, Barclay, Richardson, Raji, Gaillon, Benjo. In più sono arrivati Blanchard come terzo QB e Tale Sebetich dai Giants, cornerback barra safety. Sono andati via AJ Hawk, Brad Jones, Brandon Bostic, Devon House, Tremon Williams, Harris, Lattimore e Boykin. Tipo la metà di quelli che sono andati via sono finiti ai Vikings, più o meno. Quindi restiamo, come dicevo prima, 64 giocatori, 16,5 milioni sotto il cap. Io ho guardato su Over the Cap l'elenco, la classifica delle squadre con più cap. Ricordiamo che Over Davanti the a Cap noi, è per quelli che sono meno nerd di noi, è un sito dove praticamente cioè potete tutti. trovare delle notizie per quanto riguarda i salary cap, come sono strutturati i contratti, i giocatori, quanti anni rimanenti sul contratto. Io non ci capisco niente, però Salva è praticamente la mia salvezza su queste cose, quindi. Mi chiamo Salvatore non per niente, dai. E, allora, delle squadre che sono sopra di noi in quanto, e che quindi hanno più salary cap rimanente, probabilmente nessuna ha vinto una partita dei playoff negli ultimi 10 anni, perché sopra di noi ci sono, in ordine, Jacksonville, Tennessee, Cleveland, Tampa Bay, Oakland, Atlanta e Cincinnati. Forse Atlanta ha vinto una qualche Atlanta, partita. sì, l'anno, beh sì, l'anno del nostro Super Bowl, o no, perché loro l'hanno già il Division, quindi non l'hanno vinta quell'anno. L'anno che hanno perso, non hanno perso contro Seattle, l'anno che poi sono arrivato i 49ers al Super Bowl. No, hanno perso contro i 49ers, ma anche quello un Divisional forse era. Era forse un Divisional anche quello, forse. Non mi Non ricordo, ricordo. sinceramente. Comunque, diciamo che le vittorie di queste squadre nella postseason si contano sulle dita di una Sì, mano. quello sicuramente sì. Per cui io penso che la situazione sia ottimale, e qui mi ricollego all'asterisco che avevo fatto prima, per fare di tutto per rifirmare il prima possibile Daniels. Sì, diciamo che è quello, è l'ultimo anno di contratto, è, diciamo, dovrebbe essere il big free agent di Green Bay dell'anno prossimo, praticamente. Non mi ricordo chi scade ancora, dovrebbe scadere Perry, forse, se non gli esercitano l'opzione per il quinto anno. Dovrebbe scadere Mike Neal, mi pare. Sicuramente non tornerà Peppers, per realtà, secondo me, ho visto come la struttura del contratto. Quindi Mike Dennis deve essere il pezzo grosso, sì. Io ho l'idea, come Rolando l'ha detto, lo firmeranno prima dell'inizio del prossimo campionato, secondo me. Anche se c'è da dire che ultimamente in realtà Ted ha lasciato correre un po' di cose, cioè ha fatto sì che i contratti finissero, come per esempio per Bulaga e Cobb, e vedere poi cosa, o anche Shields l'anno scorso, per esempio, per cui non è neanche detto questo. No, Io non è spero che lo detto. facciano il prima possibile, perché magari saranno cifre più ragionevoli di quelle che spero saranno a fine del 2015, perché spero che Spacchi Daniels il faccia una mondo. stagione da All Pro, o magari da campione. E, tra l'altro, sono uscite alcune interviste a Daniels, è carico come una molla anche lui. Tra l'altro, lui è rimasto per tutta l'off-season a Green Bay, è rimasto ad Infatti. allenarsi. Tra l'altro, ha detto anche che andando praticamente tutti i giorni al Lambeau Field All'embo. in palestra, aveva un po' paura perché è abbastanza spettrale quando non c'è nessuno. E ha fatto Beh, molta se boxe. vuole gli faccio da accompagnatore, gli faccio, cioè, Esatto. no, mi paga giusto il poco, le spese di vitto alloggio. Ha fatto molta box in off season perché ha detto: sì, ok, è uno sport di squadra il football, però quando sono lì sono io contro il mio avversario, contro i due avversari, sai, il double team. E quindi dice che la box lo aiuta a dargli l'esplosività e la visione, il mindset della battaglia. Quindi a me sembra Sta carico come una carico, molla. Eh sì. sì. Tra l'altro, mi pare che Mike Daniels sia tra l'altro è un giocatore un po' undersize per il ruolo che lui gioca. Che però mi pare sia non so se al college o alla scuola abbia fatto anche wrestling, ok? E che quindi ed è una qualità che mi pare il front office dei Packers cerca molto nei giocatori che va a draftare. Sembra una qualità che si sposa molto con le abilità della linea, sia offensiva che difensiva. Una curiosità che magari a qualcuno interessa, magari a qualcuno no, però Chissà se anche secondo Raji ha me. fatto wrestling. Tra l'altro, Daniels si è detto molto contento del ritorno di Raji, gli darà di sicuro una mano almeno in quanto tonnellaggio sulla linea. Li vedo carichi, ho visto qualche intervista, a me sembrano abbastanza carichi e spero che non rompano più le palle più di tanto con la storia di Seattle, li lasciano lavorare in pace. Vediamo quello sarà il la settimana che porterà la partita di Seattle, cosa ci si aspetta? Si aspetta di tutto e di più. Non lo so, sì, anche a me sono piaciuti, le dichiarazioni anche di Cobb, è bello il fatto che siano tutti, che siano la maggior parte, siano già lì ad allenarsi. Su Twitter ho visto una bellissima foto dell'offensive line praticamente completo, c'era Bakhtiari, Lang, Sitton, Linsley e Tretter, praticamente, che stanno giocando un gioco stranissimo, non so cosa fosse, bevendo birra. Ah, quello di cui vanno... Ah, ok. Non sapevo di quel gioco nerd che sono soliti... per cui sono soliti perdere le notti quando sono... No, non lo so questa. Devo ritrovare la storiella perché è un gioco, una specie di gioco di ruolo per cui perdono il sonno durante la stagione. No, trovala, è bellissimo. Adesso ritrovo la storiella dopo ne parliamo. Sì, esatto. Quindi è bello vedere queste cose qui. Sì, sembrano cariche, anche perché anche McCarthy, che alla fin fine ha detto siamo qui anche quest'anno per arrivare fino in fondo. Poi, ragazzi, secondo me è poco da dire. La stagione è andata a puttana. La stagione che arriva al Championship, secondo me, è una stagione che è di successo. Poi l'abbiamo persa nel modo che abbiamo persa, non ci torniamo su. Tra l'altro, Mike Dennis ha fatto una cazzata grande come una casa nel Championship, esatto. E lo sa anche lui, quella cavolo di penalità che è andato a prendersi contro. Dopo l'intercetto, forse, nel primo quarto. Esatto, nel primo quarto contro Max Unger, mi pare. Sì, credo si è sì, dato sì, da, sì, dato, sì. Prende lui, era fuori dal campo, è corso dentro il campo per sfotterlo, che ci è costato cosa che è costato 15 yard, invece di andare dalle 4, sembra di dalle 19, quindi una puttanata madonnale anche quella. Cioè, non siamo in livello di super robust, però... Vediamo, dai, ce la godiamo quest'anno. Noi poi... cerchiamo di fare un fioretto, non parliamo più di Seattle. Che sarà difficile, sarà difficile. però, di tempo forse abbiamo già parlato abbastanza. Dovremmo tornare sul discorso. È una stagione che non finisce con l'anello, è una stagione di successo, è una stagione da buttare, è una stagione che possiamo salvare, cioè è da tornarci sull'argomento, forse non arriveremo. Una stagione che non finisce con l'anello è statisticamente la stagione più probabile in NFL per tutte le squadre, quindi sì. Non la farei così non la farei così drastica, è vero, è vero, ne abbiamo parlato anche altre volte al telefono. Ovvio che se Rodgers finisce la sua carriera con un solo anello, sì, ti lascia sicuramente un po' di rammarico in bocca, ok, però uno l'hai portato a casa e ci sono squadre che non l'hanno portato a casa, quarterback grandi come lui o forse più grandi, non lo so, perché magari io Dan Marino non l'ho visto, quindi non ho, però Dan Marino, ricordiamo che ha finito la carriera con un anello, Peyton Manning ha un anello. Da Marino zero, se non sbaglio. Da Marino zero, sì, scusi. Peyton Manning ne ha uno. Poi ovvio che non puoi dire, cioè non puoi che puoi dire contare un giocatore più forte in base a quanti anelli ha. Una statistica stupida probabilmente. Però sì, anche perché comunque è un gioco di squadra. Anche le altre squadre partono per vincere, per arrivare in fondo, quindi non è che sono lì per far numero, ok? A parte Oakland e Tampa Bay. Ecco, Oakland che però forse ha girato l'angolo, forse. Sì, forse sì. Jackson le tennis ultimamente. Allora, ci sono squadre che sono 20 anni che non fanno partite playoff. Sembra che qui giocare i playoff sia una cosa normale, ma cioè, squadra non lo è alla fine, quindi... Sì, diciamo che giocare i playoff ogni anno non può essere l'obiettivo massimo, ma è di sicuro l'obiettivo minimo di partenza, perché se non ti giochi i playoff non fai nient'altro. Dopodiché, esatto, quando sei nei playoff può succedere di tutto, abbiamo visto anche quest'anno con Rodgers che è arrivato su una gamba, magari sarebbe andato diversamente se avesse avuto due gambe a disposizione, non lo sapremo mai, però insomma è uno sport talmente complicato, talmente difficile, talmente concentrato, perché si giocano pochissime partite, che alla fine va anche a culo. Quando sei nei playoff non sempre la squadra che ha fatto il miglior lavoro in off-season, in free agency, in questo o in quell'altro, poi alza il Lombardi. Per cui, sì, insomma... esatto, vincere la division secondo me non è che sia una cosa, vabbè, ha vinto la division, basta, cioè, cosa me ne frega, vincere la division insomma è l'obiettivo minimo di tutte quante le squadre. E c'è una stagione che finisce con la vittoria del Divisions, ma è una stagione che per definizione è positiva. Secondo me, invece, si dà, secondo me, all'interno del gruppo, nel nostro gruppo si dà per scontato questo fatto qua. Cioè, voglio dire, sì, Division non sarà sicuramente la NFC West dell'anno scorso o una NFC North di qualche anno fa, però non è un division che insomma, negli ultimi anni ha portato, negli ultimi 13 anni, Chicago 2 volte al championship, ha portato Minnesota al championship, noi ci siamo arrivati 3 volte, quindi voglio dire, ci sono division che sono nettamente più deboli della nostra, secondo me. Se, Esatto, proprio, se sì. poi andiamo a vedere, se guardiamo la division dei New England è 14 anni che gioca contro nessuno. E, cioè, se noi Esattamente. guardiamo, se guardiamo la schedule di quest'anno di New England, come l'NFL sarà in grossa difficoltà per trovare una partita da mettere come season opener, perché quest'anno si accoppia, a parte con Buffalo, Jets e Miami, si accoppia con la AFC South, quindi mi pare avere in casa Jacksonville e Tennessee, qualcosa del genere, e l'unica partita un po' di un certo appeal forse sono Philadelphia e Pittsburgh. Sì, Non è esatto. tanto, quindi no, Ah, dopo per l'amore guarda, a di Dio. proposito, dato che stiamo parlando di altre squadre, io volevo parlare di altri due giocatori che non sono nei Packers, per fortuna. Uno, vabbè, conosciamo tutti, Greg Jennings, che è ancora senza contratto, e faceva ridere il fatto che abbia già visitato quattro squadre senza uscirne con un contratto, E ricordiamo ossia che Miami. Boykin invece ha già il contratto, ha firmato per Esatto. Carolina. Jennings ha visitato Miami, Jacksonville, Carolina e New Orleans, ancora niente. Mentre invece pare che sia tornato il Tebow Time, questa volta a Mamma Philadelphia. mia, aiuto ragazzi. Quindi l'atleta di Dio è tornato in campo dopo aver rischiato di finire ai Siemens Milano l'anno scorso, adesso gioca a Philadelphia. Oh, però ragazzi, tipo ha vinto una partita di playoff contro Pittsburgh, quindi Esatto, non è che non Peyton tutti Manning l'hanno l'abbia vinta fatto. molte di più ultimamente, Sì, esatto. esatto. Quindi ci vediamo, però cioè, per quello non ci sta, però vedere da tenere in considerazione. Mi pare fosse Jason Witten ieri che dava una certa chiave di lettura, nel senso col discorso che si vuole portare la trasformazione da 2 punti alla yard e mezzo, magari si tratta di un quarterback che potrebbe dare qualche elasticità in più alla giocata, magari un giocatore potrebbe sia correre che lanciare. Boh, vabbè, Esatto, insomma, sì. devono anche loro scrivere qualcosa su queste cose, però mi ha certamente sorpreso un po' la firma. Certo che penso, e poi magari chiudiamo perché altrimenti qua la gente si Sì, addormenta. Io starei esatto. qua a parlare altre 2 ore, però vabbè. Penso che la cosa che spaventi di più di Tebow è probabilmente quella che spaventava l'anno scorso per quanto riguarda Michael Sam, ossia il carosello mediatico che si portano in giro, che si Esatto. portano presso, perché alla fine non sarà un grande quarterback, probabilmente non lo sarà mai, però ci sono anche dei backup molto peggiori di lui, probabilmente in NFL. Certo, assolutamente, sono E diciamo che d'accordissimo. paga, oddio, colpe sue, perché è stato poi lui a fare tutto questo circo sulla religione, eccetera, ma probabilmente Sì, l'aspetto diciamo, del football passa in secondo piano con lui. sì, è anche però da dire, è uno degli atleti che ha più vinto a livello di college football, è sicuramente un Hall of Fame nel college football, mi pare. Non so, magari non so se ci sia l'Hall of Fame nel college football, però sicuramente lui è una persona che ci andrà sicuramente. Quindi, no, è vero, sono d'accordo con te. È vero, a livello mediatico, lui come Manziel, le volte che sono in America, è allucinante lo spazio che hanno su SportsCenter o su ESPN. È quasi ridicolo, secondo me. Sì, infatti sono state molte prese in giro anche su Twitter a ESPN per la notizia di Tebow, perché praticamente ESPN sarà diventata Tebow 24 in questi giorni. Però vabbè, insomma, ciò che fa notizia, alla fine ne abbiamo Certo, parlato anche noi, quindi fa notizia in ogni caso. E, dai, esatto. cosa facciamo? Chiudiamo qua? Forse abbiamo sforato Chiudiamoci. la mezz'ora? Sì, esatto. Abbiamo Probabilmente. sperato, però ci siamo divertiti stasera. Intanto abbiamo ancora 3 spettatori addirittura, non so chi siano. Ciao, 3 spettatori. Dai, voi chiediamo direttamente l'appuntamento alla prossima puntata o facciamo i misteriosi? Facciamo i misteriosi Sappiamo perché già non lo quando è la sappiamo anche prossima? noi, non lo sappiamo anche noi, Ok, non lo no, sappiamo ancora. volevamo. Niente, a posto. La prossima ve lo faremo sapere, Ciao Salvatore, buona dai. serata. Ciao, Matte, buona serata. Ciao, ciao, ciao a tutti. Go, Peggo. Technique!